La crisi ancora morde l'intero sistema economico, che una classe dirigente come la nostra si deve far carico di avanzare appunto al mondo politico e alla comunità economica delle iniziative tese a trovare delle soluzioni. Confagricoltura l'ha fatto partendo dal basso, dalla volontà degli agricoltori che chiedono al 75% nuove strategie imprenditoriali e la possibilità di aggregare la loro capacità di fare impresa. Il progetto politico-economico va dunque in questa direzione seguendo due filoni. Il primo è quello di una radicale riforma tesa a ristrutturare il quadro normativo che fino ad oggi ha governato l'agricoltura, un quadro normativo in molti casi vecchio di 50 anni che non tiene conto delle sfide verso la quale oggi l'agricoltura è rivolta. E il secondo aspetto invece è commerciale e operativo, tiene conto della necessità, come dicevo, di aggregare le strutture economiche delle imprese agricole per abbattere i costi di produzione e migliorare il peso negoziale nel mercato. Quindi una commerciale nazionale tesa oggi a gestire 350.000 ettari con un fatturato potenziale di 500 milioni e una riduzione vera di costi di produzione di circa il 20%.